seguono sono uno breve e uno molto più lungo che concluderà il concerto. Il primo dei due è legato al fiume Furore, quel brano che abbiamo fatto nel 68 per il nostro testo. E sul disco abbinato questo, e questa è la versione per quartetto, Canto per i Martiri Negri, e seguirà subito dopo la lunga suite che ha già fatto uscire di vita e che avevamo fatto per il terzo mondo, Africa, che concluderà il concerto. È una lunga suite che vi offriamo per la prima volta qui all'Università. Grazie.